Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci in ritardissimo, 16:38, Luca Tremolada, Luca Dello Jacopo, buongiorno, oggi parliamo di giornalismo partecipativo, delle nuove frontiere, di quello che sta succedendo, parliamo anche di quello che sta succedendo su Facebook, dove gli studenti delle scuole di giornalismo stanno protestando e ci stanno aggiornando giorno per giorno sempre sulle pagine di Facebook, sui termini della loro protesta. Abbiamo con noi in collegamento Federico Bo. Un saluto a tutti. Che è il cofondatore di Spotas. E Angelo Agostini, che è oltre ad essere stato il mio direttore della scuola di giornalismo. Buongiorno Agostini. Buongiorno Tremolada, alle 6. Sì, è anche e soprattutto il docente allo IULM di tecniche di giornalismo e direttore della rivista Problemi dell'informazione. Ho detto bene? E coordinatore del master in giornalismo, ecco, della mia università. Un sacco di cose, insomma, un sacco di cose. Allora, sentiamo le news e poi torniamo subito a bomba. Un gruppo di robot grandi quanto una manciata di molecole. A progettarli sono stati 3 atenei degli Stati Uniti. L'obiettivo è di intervenire sul codice genetico e di assemblare oggetti su dimensioni di 1/1000 di metro. Ogni robot molecolare è in grado di muoversi in modo indipendente dagli altri. È la frontiera delle nanotecnologie. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista del settimanale britannico Nature. Il riciclo di metalli rari nell'industria high-tech non supera l'1%. Sono materiali poco noti come indio e germanio, ma decisivi per lo sviluppo delle tecnologie. Tanto che le Nazioni Unite lanciano l'allarme. Entro 30 anni potrebbero scomparire. Eppure la domanda di metalli rari è in rapida crescita, fino a 2.600 tonnellate entro i prossimi 10 anni. Il social network Twitter sperimenta una piattaforma dedicata alle aziende. È l'ultimo progetto varato per trovare fonti di reddito alternative. Gli utenti di Twitter possono scrivere testi di 140 caratteri, poco più brevi di un messaggio inviato con il cellulare. Nel mondo, 105 milioni di persone sono iscritte al social network. Rieccoci in studio, stavo dicendo, partiamo da dove? Partiamo dalle inchieste, che sono un po' la materia più difficile da affrontare, più di solito si dice sempre non si fanno più inchieste nei giornali. Sì, in questo caso ecco, la differenza è anche il modo di finanziarle, cioè di raccogliere i fondi attraverso il pubblico di internet. Spotas, è un po' la colletta. È un po' la colletta. Spotas ha inventato un metodo di un'alleanza, dicevi tu, tra giornali giornalisti e lettori, un'alleanza un po' strana. Sentiamo la scheda. Un'alleanza tra cittadini e giornalisti per l'informazione online. La redazione di Spotus raccoglie le segnalazioni delle persone attraverso internet. In seguito, i reporter chiedono finanziamenti ai lettori per scrivere gli articoli. Ognuno può contribuire con una piccola somma di denaro e la raccolta delle quote paga l'intera inchiesta. A fondare Spotus in Italia è stato un gruppo di 3 persone, Federico Bo, Antonio Badalamenti e Antonella Napolitano. L'iniziativa è autofinanziata e negli Stati Uniti è già un successo. Gli articoli pagati dai lettori arricchiscono l'informazione locale attraverso la collaborazione con le principali testate sul territorio. Le inchieste, infatti, arrivano sulle pagine dei principali quotidiani, come il New York Times e il San Francisco Chronicle. Negli Stati Uniti è un successo perché negli Stati Uniti è il posto dove appunto Spotas, che è un modello di riferimento per tutto il mondo, è stato fondato dove c'è la baia di San Francisco e dove sono partite appunto delle inchieste con la collaborazione dei cittadini. L'esperimento italiano si ispira all'esperienza degli Stati Uniti parte con un'idea. Una tra le tante idee che hanno è quella di un'inchiesta sull'immigrazione e sul territorio locale, giusto Federico? L'idea non è nostra, naturalmente parte da un reporter campano che ha lanciato questa idea, questa proposta per fare un'inchiesta e anche una video inchiesta piuttosto complessa sul territorio in Campania. Per parlare di integrazione e di immigrazione in quelle zone dove questi temi sono molto sentiti. Federico, quando dici complessa intendiamo non solo complessa da un punto di vista giornalistico ma anche da un punto di vista dei costi? Esattamente, perché Antonio ha proposto questa inchiesta e ha fissato un costo di 5.000 euro, che è già una cifra sostanziosa, soprattutto da raccogliere attraverso il modello del crowdfunding. Ci state riuscendo? Scusa? Ci state riuscendo? State raccogliendo questi 5.000 euro? Cioè... No, ancora non è partito il finanziamento, perché la piattaforma innanzitutto è stata lanciata circa un paio di settimane fa. Si sta riempendo, si sta riempendo molto di reporter, di persone che si iscrivono come reporter, e un po' meno come cittadini, perché ovviamente c'è bisogno di proprio di far conoscere questa nuova possibilità. Quindi c'è questa voglia di scendere in campo e di andare a raccontare le cose. Credo più che di pagare, mi viene da dire in questo momento. Proviamo a sentire Angelo Agostini. Suggerite a Spotas Italia di mettersi subito in contatto con la Fondazione Aref, fondata dal vostro caporedattore Luca De Biase. Ah, questo credo che sia già nelle cose, no? Noi cerchiamo collaborazioni ovunque, soprattutto dove sappiamo che possiamo trovare orecchie che ci ascoltino. Quindi il cuore del progetto è la collaborazione con il maggior numero possibile di entità. Ecco, allora facciamo una cosa, fermiamoci un secondo sul traffico, stavo dire sulla pubblicità, che di solito dovrebbe pagare insomma i prodotti giornalistici. Ma ci sono anche altre fonti, come vediamo. Vediamo, poi vediamo se ci sono altre fonti, per ora è tutta da vedere, quindi fermiamoci un secondo. Strade in diretta. Sono gli incidenti a causare maggiori disagi in questi minuti. Iniziamo da quello accaduto sulla 14 Adriatica, dove ci sono al momento circa 3 km tra Cesena e Rimini Sud in direzione di Taranto. Un incidente anche sulla 4 Brescia-Padova, proprio dove c'era un cantiere di lavoro, tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova. Sull'autosole sono invece per traffico le code da Modena Sud allo svincolo per la 14 Adriatica in direzione di Bologna, e ancora per traffico sulla tangenziale di Napoli, code in uscita ad Agnano in entrambe le direzioni. E tutto Strada in diretta torna tra un'ora. Promo 24. Volkswagen esprime il meglio della sua tecnologia progettando e realizzando la nuova Touareg, con le nuove motorizzazioni 4.2 V8 TDI, 3000 V6 TDI Blue Motion Technology e l'innovativo 3000 TSI Hybrid, con una potenza complessiva di 380 cavalli ed un consumo di soli 8,2 litri per 100 km nel ciclo combinato. La nuova Touareg offre tecnologia e sicurezza come il Dynamic Light Assist per viaggiare con gli abbaglianti accesi senza infastidire le altre auto. L'Area View, che con 4 telecamere controlla la zona intorno alla vettura, il Front Assist e Side Assist, che riducono il rischio di collisioni. Nuova Touareg, l'unica ibrida che è anche una Touareg, ti aspetta nelle concessionarie Volkswagen. Nova Lab 24. Rieccoci. Allora, Angelo Agostini, insomma, i lettori sono secondo te veramente disposti a pagare per le notizie? Direttamente. Le notizie non credo proprio, per le inchieste un altro paio di maniche. Però è una materia un po' diversa, nel senso, di fatto si dice che le notizie ormai con internet, però insomma, sono a disposizione, non sono più una risorsa scarsa, non sono passati i tempi in cui c'era solo il giornale contiene un numero ristretto di notizie, per cui insomma bisognava pagare. Adesso le notizie sono un po' ovunque, questo forse è una delle tantissime ragioni della crisi che sta un po' mordendo gli editori. Ma che le notizie abbiano uno spazio ristretto sul giornale non credo proprio. Basterebbe fare il confronto tra le notizie di un quotidiano e le notizie di un telegiornale, che fino a prova contraria è la fonte principale di informazione per i cittadini. Il punto è esattamente quello che diceva il collega di Spotas Italia: ci sono inchieste che magari i quotidiani non fanno perché sono difficili, sono complicate, eccetera, e che invece potrebbero trovare un loro pubblico di lettori. Ma c'è anche un pubblico attivo poi di persone che vogliono partecipare, oltre diciamo ai giornalisti, quindi c'è una platea che vuole però anche diventare parte attiva, perché poi mi raccontava anche Bo che durante l'inchiesta sarà raccontato quello che succede, cioè il giornalista non pubblica più l'articolo, un prodotto finito, ma racconta anche il modo in cui lo fa, rende partecipi le persone delle notizie raccolte, delle persone con cui ha parlato. È un po' una scatola di vetro da un certo punto di vista, cioè l'inchiesta diventa anche una sorta di acquario dove il giornalista racconta quello che racconta come sta operando e poi racconta anche i risultati. Questo è un modello, come lo giudichi, Agostini? Essendo io formatore professionale di giornalisti da 20 anni, come dire, quasi sono conservatore su questo, però faccio un'osservazione. Quando Gian Antonio Stella scrive il suo primo libro sugli emigrati italiani nel mondo, la Rizzoli gli apre un sito dove trova talmente tanto materiale che scrive la seconda edizione completamente rivista. Allora, pur essendo io, come dire, a favore dei giornalisti professionali, mi sembra che questo sia un modello che può riservare delle sorprese. Perché professionali e non professionisti? Perché non me ne frega niente di professione, va bene. Ah, non era quindi un passaggio ironico di critica? No, per carità di Dio. Boh, allora... Una cosa che può aiutare la tua iniziativa, una abbiamo visto, chiedere una mano alle fondazioni, l'altra è sicuramente quello di pubblicizzare, perché no, le inchieste. Una terza cosa? Chiaramente ribatto su quanto avevo detto prima, collaborazione. Cioè collaborazione con altri progetti che in Italia stanno per esempio adottando filosofie simili. Io penso per esempio a DIGIT, che anche DIGIT è un'iniziativa, un progetto che sta partendo, che si ispira a Spotas. E quindi è un'idea anche molto simile a quello che succede negli Stati Uniti, dove appunto poi queste iniziative collaborano con i giornali, collaborano anche con progetti simili. Tutti insieme si cerca di valorizzare poi l'informazione e di valorizzare la trasparenza. Anche con le stesse testate giornalistiche, in particolar modo quelle locali. Ecco. Tutti i tipi di testate, non solo cartacee, ma anche web TV, anche televisioni locali. Agostini, torniamo un pochino a Bomba. Noi ci siamo visti al Festival Internazionale del Giornalismo che si è tenuto a Perugia. Lì, insomma, Luca De Biase ha tracciato un concetto forte, ha espresso, che è quello dell'adozione, l'adozione dei lettori e l'adozione da parte dei giornalisti, cioè entrambi devono agire in una chiave di simbiosi. Guarda, do un'informazione oltre a quelle che offriva Bo. 2 settimane fa è partita un'altra piattaforma che si chiama Two Report, che è destinata esclusivamente alle testate giornalistiche, dove però i freelance propongono i loro servizi con un meccanismo sicuro di pagamento e di non, come si dice, copiatura. Allora, 3-4 cose nel giro di un mese mi fanno recedere dal mio conservatorismo. Siccome questi lavori, esattamente come diceva Bob prima, possono anche essere prodotti da giornalisti non professionisti, professionali o di professione, il fatto che siano sviluppati in pubblico, secondo me, concede esattamente quello che i giornali, le radio e le televisioni fino ad oggi non hanno concesso: un controllo pubblico sul processo di produzione. E questo non è male. E quindi poi è anche un modo di raccontare, è quasi anche una nuova forma narrativa, cioè si racconta anche il modo in cui viene condotta poi un'inchiesta. È appunto l'idea di avere quasi un vetro, una trasparenza su quello che accade poi. Facciamo uno zoom sulle scuole di giornalismo, mi sembra doveroso visto i fatti che ci sono. Abbiamo visto su Facebook dove stanno tenendo proprio una cronaca di questa trattativa. Diciamo due cose, Agostini. Che sì, sta succedendo? Lo facciamo subito. Allora, la prima cosa che sta succedendo, io ho uno sguardo irrimediabilmente positivo, la prima cosa che sta succedendo è che gli studenti delle scuole di giornalismo, che ricordiamolo sono giornalisti praticanti, alle prime difficoltà sugli stage che si sono create quest'anno, poi magari le raccontiamo, hanno aperto una pagina su Facebook e gli iscritti sono 474. Un dettaglio minimo: in questo momento la fascetta di Facebook che mostra i 6 dei 474 membri porta Marilisa Palumbo, giornalista di Europa, Giovanni Cocconi, vice direttore di Europa, Enrico Pucci, che sta in uno dei giornali dell'Espresso, Federico Pedrocchi e Silvia Gazzola. Sono tutti miei colleghi o ex allievi, il che significa semplicemente che c'è una comunità di giornalisti formati nelle scuole di giornalismo che si ritrovano accanto ai giornalisti praticanti delle scuole di oggi, e questo significa che c'è ormai una tradizione nella formazione al giornalismo che nel nostro paese non c'era mai stata. Dopodiché il problema è semplice, il problema è che alcune aziende, in particolare Repubblica e l'AGI, l'Agenzia Italia, avevano già sottoscritto degli stage per l'estate, per la primavera, con le scuole di giornalismo. Lo stato di crisi in cui questi gruppi versano con i prepensionamenti ha spinto il sindacato a bloccare questi stage in attuazione del contratto. Gli allievi per primi si sono ribellati perché hanno il dovere, oltre che il diritto, di fare lo stage, e l'altro ieri per la prima volta la Federazione della Stampa ha incontrato i direttori delle scuole di giornalismo. Diciamo che nell'immediato risultati ancora non ce ne sono, ma la discussione è aperta. Soltanto la discussione aperta, due segnali sono estremamente importanti. Primo, la Federazione della Stampa ha incontrato per la prima volta le scuole di giornalismo. Secondo, la Federazione della Stampa porterà le scuole di giornalismo a un incontro con la Federazione degli Editori. Gli editori non hanno mai voluto sentire parlare di scuole di giornalismo, ci vedranno per la prima volta in 20 anni la settimana prossima. Questa è sicuramente una notizia. Io ringrazio Angelo Agostini, il nostro tempo purtroppo è già scaduto. Ringrazio Federico Bo, anzi gli facciamo un in bocca al lupo all'iniziativa. Appena avete dei risultati sull'inchiesta, insomma, noi siamo qui, per cui possiamo anche diffonderli attraverso la radio. Grazie Federico Bo, grazie Luca, e ci sentiamo noi lunedì, già lunedì. Arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.